persone. Che ci aveva, ma lasciamo perdere, va. Quelle persone non si meritano l'amicizia, capisco. Purtroppo, vabbè, anche io sono caduto, ma io non ho perso niente, lui ha perso un bel, o altri hanno perso un bel. Non so, non ti puoi mai fidare di nessuno, no? Ma perché metterci la gelosia? Ma cosa vuol dire questa cosa? Non l'ho mai capito io. Butta a bestia la gelosia, butta a bestia. Io non sono mai geloso di nessuno, ma mi sembra una cosa che me la compare. Ma appunto. Adesso vediamo quanto spendo la dentista, vediamo. Con l'appuntamento, giorno 6. Mi ammazza, non so se mi compro anche la macchina. È vero? Certo che sì. Quello mi piace venire a comprarmi la macchina, pure domani, e ne me la compareggio. Però prima penso a me. A me, la macchina già aspetta. Ti metti a posto i denti. Prima penso a me, alla mia persona, poi la macchina già esita, non è problema. Vabbè, la macchina già... Sto un bel così, sulle mie. Non è che l'ha dato, ma... La uso solo per lavoro, boh. Per non fare sempre domande di macchina. No, ma io sai che ti domanda passaggi, accompagnami qua, accompagnami a chi veniva un bel lì. No, ma che rimane in chi, vabbè, sai che è festa. Non mi serve a me andare a fare la spesa, portare mia madre a fare i controlli, quello sì. Ma no, non penso che la gente è convinta che magari non è così, no. La uso solo per... quando mi serve. Quello sta... Non è che deve sempre... Cioè, vuoi che ti si muoccia che cosa? E non che bisogna pure buone gasolio, bisogna buone benzina, o che è. Ma non è che puoi buttare manca a tutti, no? Cioè, a qualche tuo parente, a qualche tuo conoscente, a qualcuno che ti ricambia il favore. Non è che diventa pure la mignotta di tutti, no? Chi c'è la prima cosa che vuole? E per furta, se devo... Dipende, adesso vabbè, sto parlando così, poi dipende da che persona è. Ma sono, guarda, credimi, sono un palmo di una mano 5, forse 4, che se lo meritano. Avanti! Chi è che chiama Italia? Avanti! A te c'è un amico, avanti, chi chiama Italia, avanti! Austria? Ok, Austria 7351, operatore Tango India, November, Oscar, ok? Ciao. Capa, qui Antonio dalla città di Sassari. Capa, mi scucci. Capa, avanti tu. Qui c'è se mi sente, Austria, Fission, Austria. Come non mi sente? Attenzione Austria, ascolti Italia, parlo Lima Unifon Charlie Alfa, avanti, buongiorno. A te che stavo parlando, cazzo di Attention. Attention, Austria. Sassari, ascoltate l'isola della Cucagna. Bagaglio, ciao. Ciao per il Vella. Motobicicletta. Buonasera Claudio. Buonasera a tutti, buonasera. Dai, solo per un saluto. C'è l'Austria che mi sta chiamando. Attenzione, non faccio dei gangui. Ma non te ne ho fatta l'antenna qua? No, è due vetri, così non me la fotti nuda a te. Mi senti? Sì, basta ragazzi, una frutta. Sì, ti sento, ma insomma. Dammi un controllo, tu invece. C'ho il baracchino, 695 qua, dai. Però quando attacco il capo poi lo do più preciso. Tino, 4 watt sto usando, l'Airbus 4280 lì, cazzo non so cos'è. 4 watt. Claudio, mi dispiace, lì non mi hai perso la corona, Non è caduta, però l'ho persa. L'ho persa per scelta mia, cazzo me la futta mai della corona. Cando mi vuoi meglio, di tranquillità. Adesso vedete voi che è il numero uno di Sassari, io sono il numero zero. Ciao! Ma se non prendi la cugliupa, puti di. A me manco qua un gatto, me la futti. E poi c'ho problemi, altro che baracchino, ciao! Ciao, Fraccia. Ehi, sì, stai già andando, che mondo. No, c'è gente, dai, sono entrato a prendere sigarette qua nella stanza, ciao. Va Bex, va bene, ciao ciao. Ciao ciao Cla. Capirai che c'è corona. Mi pare. Il più forte che arriva qua per voi, nella mia zona, a 4 km da Sassari, Roberto Quadrato. Ciao. Se ce l'hai attaccato, è logico. E Fabrizio. No, Fabrizio non l'ho sentito ancora. Roberto 9+25. Perché è in alto. Io a lui arrivo 9+25 uguale, quindi non cambia niente. Dai, vi saluto, ciao a tutti. Nessuno sa dove sono, comunque. E va bene così. Ve lo dirò più avanti, ciao. Primo e andiamo, cazzo. Miau, miau, miau. Scappa. Per modo tuo. Che più che meno. La puttana sarà sì, forte o debole. Tassate che mi senta. Chi mi sente, chi non mi sente, è più male. Andiamo e andiamo, cazzo. Bravo Luca, bravo, così deve essere. Scappa. No, va bene. Ognuno fa la sua parte, dai, diciamo. Ma tu, cazzo, io non sono a Sassari, toglietelo dalla testa, io non sono più a Sassari, ok? Appartengo a un'altra parte. Ho detto, ognuno fa la sua parte. Guarda, i miei volumi latino sono più di 10 km, 10-15 km, immagina già di tu. Qui fuori a mare. Fuori a mare sì. Ti ripeto, nessuno sa dove sono, ma sono abbastanza distante da Sassari, dai, ok? La tenne base, infatti sono pochi, poi più avanti vediamo cosa fa. Ciao a tutti! E già arrivi già, a voglia. Ciao! Arriverò anche meglio, vai, ciao ciao! Ciao ciao! Io via! Vabbè, importante poi sentirci, sono sempre qua. Fino a Andriga già arriviamo, dai. Io non hai parlato con l'Australia, lo dovevi. A poco fa era Austria, non Australia. Ah, è Austria, vabbè. Sempre là. E chi da la sabbaccia di Romondo? Andare. E chi beve la birra, beh? Austria, Austria. Esatto, ma guardate, non so neanche se l'ha accordato, lo sai. Non ho capito. Ho detto che io ho acceso l'altro, ma non sapevo neanche se l'ha accordato. Ma sai che andava bene. Aspetta. Forse va bene ora. Ma va bene a tutti. Sì, va benissimo. Chi è che ha fatto la ola? Sì, va bene, va bene. Lascia verde. Ha già compreso, cara. Fai bravo, dai. Se no, se no è un che fremo grattamass. Ciao Fra, no, sto provando questo amplificatore a vedere se va bene. Ma perché non si è acceso? È una barata bella di riduca. Esagerato, ok. Tanto va bene. Ciao a tutti, dai. Ciao Tino. Ciao anche Antonio, che sono entrato qua, ho acceso, sono salito, ho acceso e vi ho sentito. E allora... Andare. Ciao Fra, ciao. Un abbraccio, per il bene. Via, ciao, ciao. Ciao tu. Ciao Fra, qui Sorso, buonasera. Ciao Franco. Ciao, ciao. Ma qua che sta facendo? Sempre solito pirla. Dopo vatti dietro un malacchino fa tanti costi. No, tu cosa ne dici? Così è, così. È buona attacca di pollice, buona attacca. Ma cazzo ti greghi, non ti gunissimo cazzo. Un malacchino, fate i cosi così. Capisco uno che ti conosce, va bene. Vabbè. Poi sono tranquillo, non le lascio in pace. E là ti vuoi una roba di coglioni. Allora passiamo. Sì, no, non mi disturba, non è quello, però da fastidio. E allora ignoriamolo. Cappa cappa. Ola. La Coca-Cola. Quella era Giovanna. È vero. Giovanna Coca-Cola. Ma Giovanna non era la... La sorella di cosa? Di Antonello. No, sì, no, era qua in radio prima. Sì. E c'è la difficoltà a piazzarsi l'antenna. Ah, vabbè, io non mette si imbarazzo. Lo so, lo so. Cappa. Hasta oggi chi ci sono? Sono Baden, rimanirano i Baden di Irani e stasera con Mattessi. Asciuga. Secondo me ci sconvolgono questi qua. Che c'è che bisogna un barazzo. Può essere. E chi si muscimiamo insomma? Ah, e allora? Sai che esagio questi così, con la moglie, con l'amica e compagni così. Già messo la gianna, che sono lasciato la porta aperta, e così tutto quel passetto, e tu sei il tuo gazzino. Sai che la prima sto provando di casa. Ti do il tuo bicchetto. Andiamo, andiamo. Uia, uia. Che giornata strana oggi. A casa tua c'è lui? Sì, a casa la mamma. 9:05 arrivi col baracchino. Io quando ti arrivo? Qua mi stai levando segnale 5 tu. Ma ciao, grazie. Qui si bisegna. La male più bella, la radio è sempre la stessa, eh. La radio è la solita super. No, qua c'è più forte, qua c'è in opera. Vabbè, abituatevi a questi segnali perché di più io non posso fare, riportatemi, mi sentite. Ehi, vabbè, abbiamo un altro tipo di radio, non so se rendo l'idea. Cosa, Lu? Antonio, abbiamo un altro tipo di radio, cioè un altro tipo di... tu c'hai un altro tipo di radio dalla mia, io c'ho un baracchino, capito? Ma io sto usando un baracchino adesso, 4 watt però. Ci attacca il K è meglio. Metto la scatola, ma ho toccato ora attaccare un K. Una cosa la bocca. Infatti, K. Piano piano, si fanno i corsi. Tutta la bocca. Sì, già non gli ho fatto un bel, tutto in pari. E comunque, secondo dove sei è tanto me. Anto, sono lontano da Sassari, non sono vicino, sono lontano, abbastanza lontano. Sì, ok, ma secondo in che punto sei? Cioè, io non ne ho un'idea. Arrivi già tanto, cavolo. Chi mi arriva forte è Muros. Muros mi arriva un bel forte. Te metti lì. No, non è lì, è più lontano di Sassari, però ce l'ho di fronte, capito? È aperto. Eppure tutti quelli delle zone alte mi arrivano forte. Io qua è medio bassa, come dai gusti là. Tu che arriva un bel forte, 9:05 qua. Cappa. No, già va bene. Non penso che sia da meno io col K, no? Io anche tu sei 9:05, però ti ripeto, c'ho il baracchino. Già va bene, niente da dire. Vabbè, l'importante è mi sentite pure per fare due chiacchiere, già va bene. Cazzo, cazzo, cioè arrivi benissimo. Solo ti mando la registrazione, arrivi bene del radio. Segnale è quello, vedi a quello. Non ti posso dire che arrivi di 9:10, no? Prima sì, andavi a Carbonazzi, adesso che sei dall'altra parte. Praticamente sei più basso, poi arrivi la radio sempre quella, Ma io non lo vedo Sassari, Lu, capito? Sassari non lo vedo io. Vabbè, comunque. Magari mettendoti l'antenna meglio, arrivi bene, arrivi meglio. Va bene così. Non ti preoccupare. Quello che conta la radio, il segnale, lascia il tempo che trova. Sì, vabbè, devo migliorare ancora, non ho voglia di fare niente. Devo sollevare l'antenna, attaccare il K. Poi glielo sesso gli amplificatori, quindi il segnale lo posso portare su come voglio, però devo montare meglio l'antenna perché è appoggiata alla rete della recinzione, capito? Ma sono da stazionarie, va bene. Scusa? Non lo rapporto uno, c'è di stazionari. Claro, ascolta una cosa, ma sul tetto non si può mettere. No, non c'ho aggancio, Lu, non è stato messo il tubo di sostegno. Beh, di fianco alla casa. Non è di fianco alla casa l'antenna, ma è appoggiata, vuole tirata su di altri 4 metri. No, dico, messo con le staffe a fianco, invece di metterla su, proprio al centro del tetto, no? Metterla di fianco con le staffe, sollevata. No, è nel muro del cavello, io mi ho fatto mandare la foto ad Antonio che gli ho mandato. È nel muro del cavello con le stesse staffe, con lo stesso tubo, con lo stesso impianto che ci avevo a Carbonazzi, non cambia niente, è che vuole tirata su. Vieni a metterla su. Sì, non devo portare i tubi ancora, devo fare un sacco di cose, sto pensando alla casa, solo mi scende l'antenna. Sì, certo, non adesso, più in là. Più in là, non sto dicendo adesso. Sì, dopo devo installare altri due tubi telescopici e portarla su di altri 4 metri e supera il tetto della casa. Adesso non lo supera il tetto della casa. Ho capito, ho capito. Io va bene, allora. Ti arrubiamo. Che come la sai, una tecca dall'altra, poi ci... Allucinato, cosa in fretta, no? Guarda che te l'ho mandato. Guarda, ti ha mandato la foto della... dove è montata l'antenna. È montata benissimo, e ci vuole tirata su, c'è solo un elemento, ho capito, blu. Giusto per tenerla, non ci sono tiranti, niente. Ci vanno altri due elementi lì. Ah, ho capito. Vabbè, piano piano. Lu, c'ho altre cose più importanti da fare, Va bene, mi saluto e vado a cenare. Ciao. Ma quella la mato fa uno, Ecla. Io Mantova 1, pulita, rimessa tutta in sesto, tutta nuova, rivulcanizzata, pulita, nuova, nuova. Va bene, io devo buttare la mia giù, lascia appena è, tempo permettendo, la butto giù, ma la smonto tutta, ma la pulisco bene bene, poi quando sarà, per il momento mi sa che qua stacco, quando sarà poi mi rimetto, faccio fare le staffe a Roberto, faccio una cosa fatta bene, se la posso la posso bene, se no la posso bannuta. E niente, quando sarà ripeto tutto. E quelle staffe che vedi attaccate a muro le ha costruite Fabrizio, l'impianto l'aveva fatto lui a Carmonazzi, ho smontato quello lì, l'ho messo qua, capito? Tu immaginate che io l'ho smontata la carbonata, l'ho fatta in 3 pezzi, ci ho messo 5 minuti, tolto il vulcanizzante, le fascette e i acciai inossidabili, le ho smontate con cacciavite. Ho sfilato i tubi, sono venuto qua, l'ho tutta ripulita, rimessa le stesse fascette, rivulcanizzata e l'antenna sta funzionando. Meglio così, va bene, Cla, lasciamo qua noi. No, per molto, però adesso qua. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao, ciao, già va bene, cavolo. Va bene, caspita. E poi Mantova 1, vedo da arrivare. Guarda, se rimetto appena arrivate, vedi come ti esci forte. Arriva un bel forte in oggi. Luca! Io sono qua, stavo guardando, la Juventus ha vinto. Stava parlando 1-0, perché poi ha pareggiato 1-1. E ha messo 2-1. Comunque, campione d'Italia siamo noi, Prega! Inter! Sempre la Juventus. La Juventus ormai... ormai è lì. Questa non si prende nemmeno un bel chigno. Scappa. È meglio così, adesso andata a loro. Cosa per un d'attesa io, scusa. Mi è sudata a nera. Allora, guarda come ti viraggio la luce di Bazzendiglioso. E tiro la mano e oggi è viraggio. Vicino. Ehi, l'ha fatto proprio il proprietario, l'ha fatto progettare apposta così. E adesso dall'antenna TV. Ma va a me, quando li tengo ve lo dico. Beh, tra di muni a posto è. Tanto lui penso che lo sa chi è l'antenna. Adesso lo fa a seguire il capo. Il problema è il capo dentro la canaletta, ce ne sono anche altre. Se no ti vanno a fregare da nuovo, ce n'ha fuori. Quanti televisori hai? Uno. Allora, ti fa la nuova carta, entri da dove hai fatto entrare il capo del baracchino. Cosa ti ne ha fuori? Scusa. Il capo del baracchino è un lucernaio. È un lucernaio, poi veniva il nome del lucernaio. Cava. Ma ti pare che il coso lui mettiamo a posto, vediamola. Guarda, ti basta anche, sai quale? Ci spendi poco. Tanto se non hai proprio, come si dice? Non so, i canali tipo Rai 2, Rai 3, Rai 4, canali 5 li vedi tutti, non vedi molti canali, non li vedi. Quella che vende lì come era 10 euro. Chi è che voleva entrare? Se qualcuno va fuori. Ma lei proprio la burrotta dice. C'è nato, Anto? Sì, oggi presto. Antello. Buongiorno. Ehi, Pompunio. Ehi, e beh, come va? Bene, bene. Sono contento, sono contento. Ciao, Luca. Ciao, Pompu. Ja, bitte, auf Tunis ist immer gut. Die sind in Tedeschi. Oh, verkaufen. Oh, man, ja, Kartoffel. Santiago Sette, sehe ich auch nicht. Also, wir hatten heute Abend Roastbeef gefüllt mit Schinken und Käse. Und jetzt ist der Bauch gefüllt. Und zwei Lindenspieße. Ja. Ja. Esso ammazzare in varia. Quando ti arriva a te? Attention, my friend, attention, my friend. 9:10 qua è. Attention my friend, German Scooch Station of Lima, Italy. Attention my friend, attention my friend. Quando arriva la foto che vabbè sono bassi. Quando arriva la foto faccio parlare a Simona. Tanto più lei parla tedesco, io no. Sai come si riempie il canale, cazzo. Sembra un imbuto, sembra. E a un certo punto sono stato sì, Ehi, come sembra una ragazza. Oh, mamma mia, che parla tedesco. Guai. Ciao, Antonio, ciao. Ciao, ti, buonasera, ben sentito. Ja klar, ich freue mich. Definitiv. Bandöffnungen sind doch immer gut. Senti, lo so che quasi dove arriva questo di. E te cosa arriva? Ah, sparicchio, tiro. Fino 87, mi. Antone. Ah, è buon pane, vabbè. Sì, con la 87, no, io sono con le 4.000. Sto pompando con le cose. Con le viale, con quello piccolino. Hai sentato lo che ho dato. Fagna cazzoffa. Vai a oggi. Dammi un controllo, Lugarie, va la favore, cambia. Tutto qua, positivo, oggi tutto con lo sgara qua, vita mia, gas. A fondo schiena, insomma. Vai, fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cazzo, sei sul 3, vedi tu, vedi te. Fra. Fra, ma io da cosa? Franco, dove venti qua? Ciao Antone, buonasera, non vedete anche tu, stai arrivando bene? Bene, mi state ascoltando, sto usando un'altra radio. Con le orecchie, fra, con le orecchie. Ah, del problema. Ah, mia, Tino, mi. Ciao Tino, buonasera. Ti prende mia. Ciao, buonasera. Kappa Kappa! Ja, seltsame Produkte, wo die Leistung war. Hola, hola. Attenzione, mania cazzofa, cambio! 39.40 arrivando Antonio, allucinante. Rottino, da te quanto sto arrivando? A te cambio il radio, perché questo è il birichino. Aspetta, fai un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3. E oggi c'è a fondo scala, sei, e 20, quasi a 9, 25, a volte se alzi la località anche quasi 28. Cappa, quindi, no, vabbè, ti stavo provando un'altra radio, non è quella là, questa è un'altra, volevo vedere appunto se la radio era buona di lusso. Va bene, va bene. No, io sto usando questa qua perché c'era una, un po' di propagazione poccante, stavo provando l'amplificatore. E vabbè, rapporto tra contraccambio, 9 più 20, scetti qua da me. Andà bene, andà bene. La voglia che va bene, cappa. Hola, hola chicos. Con 9.40 Antonio, 9.45 guarda mi sta arrivando questa radio. Ma senti forte sta arrivando. No, è più lontano da me Antonio. E capa, Pompunio, mi senti da quelle parti dell'altitura? E a voi li avete ascolto. Quasi 9.30 sì. La verità. Aspetta che sto accordando. Accesso. Dopo quando sale sale, come l'altra volta. Ci ho fatto un paio di ex, messo di 11 di notte, 11 mezzanotte eravamo in due, eravamo facendo quando volevamente confusi. Gaffa, gaffa, a te ciò vai fre, la massa che te ne pare, a te oggi domani ve. Aspetta, parlate in due. Andiamo, andiamo, che è te, che è? Salita, Mi sto bananando. Aspetta. Bananaggio. Andiamo, andiamo, che è? Caso bravi, goduto romolo di Sardegna, cale che ne vuole, cale che ne vuole. Caso bravi, hola la cipolla, vai che ce n'è, cazzo. E c'arciccia coi baffi. Vai che faccio freddo gli occhi, però va come un beccio. Tu faccezza, vai. Aio dai, fate quel rempi, dai. Senti qua Franco Cariboni, amica mia, senti questa radio che scoppia, cara! Cappa! Guarda questa com'è, 1, 2, 3, 4, cambio! Cioè, c'è bene a voglia, ci mancherebbe, è ben amplificata la radio. Ma te ne guarda questo passaggio come sto arrivando da te. Sono 25, 25 la bomba. La pensione è vita mia, cappa! Facciamo i seri qua, Offa! Dimmi, Antone! Come sta uscendo, Antonio? Bombolo! Tanto no, che mi faccia dello smitter! Su! Attenzione, Franco California, siete qua, vita mia! Che mi ha sumato là il baracchino cavagata. Facciamo un bordello qua, facciamo un bordello qua con tutta la scala, tutta potenza cappa. Aspetta, Offa, dimmi Antonio, ti ricordi quel baracchino che mi avevi portato di quello che c'era ubriacato con la birra? Beh, è quello che c'è su Antonio. Quello è. Sì, quello è, sì. Attenzione, Franco California, senti questa piccola mosolata che ti chiamo, cappa cappa. Vai, bucci grosso. A pompa. Antonio, a pompa. Ho voglia che pompa, portalo qua per se pompa un attimino. Attenzione, uomolino, se tu ascolti Luca qua, cappa, cappa! Cappa, cappa, dai! Aio, Dino! Attacca, attacca, io, Pitbull! Mettiamo vitamine qua! Attenzione, ti ascolti questa piccola stazioncina, cambio! Attenzione, Dio Muscolo, se tu ascolti questa piccola chiamata che ti chiama, cappa cappa! Dai che ci divertiamo qua! Vai alla sovramodulazione, a tutta potenza! Grazie, cappa Roger! Non ci sono problemi, frate, ti ascolto così chiaro qua, dai, chiede! Cazzo, se andavo sul 45 sembriamo, eh! Attenzione, Franco California, senti qua, vita mia, cazzo! Eia, cappa cappa, dai! Vai che ce n'è! Vabbù, ragazzi, divertitevi, mi devo spostare! Ciao, ti... Ci senti... Ah, che ci vediamo, perché non è che ci sentiamo! Quando... Aspetta... Appena ti chiamo mi fai i fuori per mettermi le gaffe nuove di qua a casa, capito? Ti do i soldi e così mi fai fuori, perché se non vogliamo dei problemi che è successo con questo fatto di fumo è un casino, capito? E vabbè, chiama, già organizziamo, va bene, ciao. E io, d'accordo, ti chiamo io, appena cioè, sono in mano, immediatamente ti chiamo e così mi fai fuori. E, nuovo, intanto io ho un coso, stacchiamo le gambe vecchie, quelle che sono state tagliate ci mettiamo le nuove. secca la parabola. Ci mettiamo un po' di cemento rapido, non so, cemento normale, quello che va bene, ossia si asciugare quello che va, dopodiché ci metto il palo lì, io me lo metterci più tiranti. Me lo so più tranquillo la notte. Anche un dopo la notte c'è la parabola avanzata, come si chiama? Altra roba che non vuole pagarmi tanto, la roba del condominio. No, faccio io il foro con la trivella. Ma la trivella, vabbè, c'ho tutto, c'ho, non ti preoccupare. Facciamo farlo con la trivella, quello che è. Poi passa la prova, io sono di Biazzi. Facciamo il foro e prendo l'estate e già. L'italiano se la abbia il culo, una volta che sono asciutto, tac, ci troviamo il palo, spingo, e te la trovo il culo, e vediamo che sono tranquilli, a voi. Ma gli fai il fuoco con la pisella? La trivella per un altro volo, cazzo la mamma ce l'ha venuta, non è 9 più 30, sì, cazzo la mazza di nevaria. Chi io? Antonello Alessio, cazzo, 9 più 30 c'è qua. Cosa ci posso fare? Sto pompando però io, Non sono liscio, sono con lo studio a CTM. Sono così, Antonello, la bomba. Lo so, pompa questo, c'è anche l'altro veniere, lo sai. Devo solo mettere un finale, non devo fare altro, quello da 600. Quello trasistorizzato. La colpa è stata mia, perché è stato un imbecille, cazzo, alla vetta. A uno che ci mette nel rosmetto, eccetera, eccetera, che ci mette nel rosmetto, il cabetto del conto è bruciato in finale, se no dava 450 watt, come l'altro, perché c'ho le foto, c'ho, quindi la colpa è stata mia, ma vabbè, me lo sono comprato, 200 euro, va per culo, non è veramente, ma me lo c'ho un bel 600 watt trasistorizzato. Ho bruciato solo finale, il resto funziona tutto, quindi è a posto, sono stato anche fortunato. Quindi me lo sono tenuto, adesso appena c'ho voglia, me lo sistemo, li cambio il finale, i stessi li ho cambiati tutti, ho cambiato tutto il resto, ho fatto tutto un bel lavoro, diritto, eccetera, eccetera. E l'ideale è pronto, solo da inserire quel transisto e lui pompa, perché c'ha i finali e pompa, è veramente bello. Pompa le basse. Bomba sì, avevi molto forte, non me ne accorgevo perché eravamo troppo vicini, ma quella lontananza sì, 9 più 30, tanto mi ha segnato, giù giù. Ehi, capa, no, anche qua è forte, anche qua è 9 e 30, ho cra. Ma lui è a Sassari, sta gente, io non so che a Sassari è tu, cazzo. Senta, già lo so già, io ho aumentato la situazione qua, Ma non c'è niente da fare. Sul più del 3, Antonello, minchia mia segnale, c'ho la tema bassa. Molto ti arrivo io, Antonello. Papa, faccio? Guarda, con 4 watt sono con l'airbag, come ti arrivo? Sì, ho più delle cose, del 4000, quindi sei un bel segnale. Perché ti ho davanti, capito? Sei un bel alto e quindi ti vedo, mentre gli altri non li vedo. Va bene, va bene. Ah, voi, l'altro giorno ho fatto un DX liscio, addirittura. Con 5 watt per certezza sono, del come 4000, su 47-48, una cosa del genere, ho fatto il DX, ho fatto, con la Spagna, dopodiché la cosa me ne sono andato, ma la liscio mi, dopo ho attaccato, sono andato fino a mezzanotte dopo, eravamo in due al baracchino, fino a mezzanotte quasi. Vabbè, dai, se coincide a dopo, ciao a tutti, ciao Garifu. Ecco, mi sa che ti è spostato. Ehi, salutate, ma allora, dai, ciao a tutti. Gaffa, gaffa. Forte sì, forte. Forte. Io non sono 100 adesso, ma se attacco 600 come prima, cambio capo, ti faccio vedere che... Prendo come la volta attorno, devo solamente sollevare gli altri 3 metri di palo, guarda, e ti faccio vedere che di uno lo massacro. E faccio schiatta! E che la visione sono ricotta, non è che non sono ricotta, quando usavo il BV2001 l'MK3, qua da casa con altri 3 metri di palo in più che avevo preso a testa, sempre con la mano, ma però prova, se ne trova o la 5 o la 1, una cosa del genere. Al velo non riusciva a modulare col Kenwood, usavo il Kenwood per pilotare il lineare, cioè in pratica con 4-5 watt nel 140, nel 680, nel 140, nel 680 d'ingresso, riuscivano quasi 700 di, in uscita, era una cosa allucinante, non riuscivano a modulare al velo. È una cosa allucinante, guarda, vi facevo schiattare. Ti faccio schiattare, ti faccio cillucci di fura. A bei tempi quelli. Allora c'ha, vabbè. Io dopo avevo tutti i giorni a metà, anche qua a Sassari. Tra quale le sole usavo. Mi diceva Antonio abbassa, sei troppo forte, no? Mi stai spatterando, no? Per dove sono andato? Hai capito? Ma io ti parlo di tanti anni fa, non ti parlo di adesso, eh? Adesso le cose sono cambiate, cambia di tempo quindi, però prima, c'era la si fa popolare a me, non passava nessuno, non passava, c'era la tua una sola da una parte, la tua la torcia dall'altra. Quindi al vero non riuscivamo a lavorare da loro, figurati, era una cosa allucinante, una volta bella la verità nei tempi quelli, ma io che non ho registrazioni audio, se no poi vi ho fatto sentire la verità un video, allora c'era il telefonino che registrava e cosa c'era la sistema, c'era quel Motorola, quei tipi che sono usciti che faceva il cifo. Già lo so, già Antonio. Però io mi ho massacrato io. Contrariamente vi parlo in più. Io l'unica cosa che ho fatto è quando ho avuto un problema 5 anni fa che è sceso il fulmine vicino a casa, ho preso e ho abbassato il palo. Non me la sono sentita che sono andato il palo io qua, c'era 15.000, la... poi c'è stato, hanno fatto questi ripetitori telefonici e c'è il palo fulmine sopra e poi c'è il conto e la 15.000 dall'altra parte. A un certo punto gli ho detto no, preferisco essere più basso, a me lo dormo tranquillo, non so che la notte il capo mi bevo la gasa. Pericoloso. Beh, sono cambiati i tempi, la verità, non è che sia pericoloso, sono cambiati i tempi, hai capito? Il fulmine adesso scende dove gli pare gli piace, non è più come prima per dire che scaricava lontano, eccetera, eccetera, adesso ti scarica anche per dire in macchina, dove cavolo mi capita, non c'è più, ormai al fulmine non ne frega più niente. Dove capita capita, scende e basta, quindi ho preferito scendere un palo di 3 metri, mettermelo a 1,20 dal petto, in modo che ci possa arrivare, ci possa lavorare con la scala, e quindi è dormire tranquillo, perché purtroppo con questo vento, cosa da dire, quello che la notte, cosa ne sai, tu magari si muovono anche l'altro, perché se tu non fai una semente tu lo trovi giù, e devi pagare i danni degli altri, non esistono. Mi sono pigliato la premura, come ha fatto Claudio, l'ha fatto anche lui, non esiste più pali alti, antenne alte per uscire molto più forti, non esiste più, ormai bisogna cambiare tutto. L'antenna vicino alla, almeno un metro e venti, cioè sopra il tetto, almeno sei più tranquillo e più sicuro. Beh, è normale, Antone. Ma sai che cambio radio, là, la prova l'ho fatta, se no che c'è cosa. Riprendo con l'altra, ok Antone? No, se sono diventato franco, perché non pensavo che fosse l'apparecchio che mi aveva dato lui. Sentite quando gli ho detto, ti dico che l'apparecchio mi ha dato tu, quello di Antonio... cosa? Altro che è rimasto magico, ma all'inizio non ha più risposto franco. Non pensavo che uscisse così bene con l'apparato lì. Non se l'aspettava. Guarda, è morto, ma pazienza. A me non è riuscito, non è riuscito la parecchia, però quello. Ho fatto un buon lavoro e sono contento, Rita. Sono veramente contento, è stato un bel lavoro. E la bomba vola parecchio. Vabbè, gli ho cambiato i filari, Ti ho detto, diciamo, San Paolo del mese, gli ho messo il 1307 e poi poi il doppio di quello di 1969. E li può pilotare tranquillamente tutto quello che vuoi, può pilotare. Quindi, gli sono di pezzi. Giovano bene, dai. Cappa. Aspetta, dai, che sto cambiando apparecchio, perché sto qua, ho fatto la prova e già va bene. E io sono qua, non c'è problema, tranquillo. Franco, non so se c'è qua, Franco. Sì, sì. Se sono venuta poi sparito, Andiamo, andiamo, certo. Cazzo, non ho chiamato la cosa, non ho chiamato, anzi, il 22 mi sembra che dovrebbero chiamare. Solo che io non ci posso rientrare, cazzo. Voglio un capo... fare un culo a me, che non ho fatto qualcosa, cazzo, sono guai. Purtroppo non c'è niente come giardiniere. Se il giardiniere è stato meno altra cosa. Cazzo, mi parla che portatore. Devi essere. Cioè, devi applicare un labbro, tagliare il capo da sopra. Non saranno. Eccomi qua. E gli occhi. Capito Luca, come mi è arrivato con la fame nel comune, in pratica mi fa il portatore sopra, devi roba vogliono, non è così facile, deve essere proprio esperto, se no si è fottuto. Popo, là, per tutto stacca, non ci capisce la tua radio, stacca, poi ci vedete ma attaccato, c'è un messaggio, e poi mi dici quello che mi devi dire, aiuto. Adesso sono staccato, mi senti? Adesso sei chiaro, cazzo, eri pessimo. Eri appena pessimo, dimmi, sta dicendo? Ti stavo dicendo che ho visto quella fame del comune, ha detto, quella che stavo dicendo l'altra volta Daniele. In pratica voglio gente esperta per poter fare il portatore, tagliare erba, eccetera, eccetera. Purtroppo non... cioè è diverso, hai capito? Claro, il discorso è quello lì, purtroppo non sono giardiniere ma sono operaio agricolo, quindi è tutta un'altra cosa. Io posso fare solamente mi tagliare erba così con il suppurato e basta, però fare il portatore in altezza, no? Non esiste. Voglio gente esperta, vogliono, purtroppo, a fancuffia, cazzo. Ah, ho capito, il tasatore, portatore, ho capito. Ehi, dai, diamo un raggio, un attesso, non è un problema. No, io ho fatto solo, vabbè, ho fatto edilizia, solo, in comune. La prima volta 4 mesi, la seconda volta 6 mesi. Daniele è entrato ottavo, non sono contento, vabbè, alla fine, cioè, c'è anche un figlio a carico. Beh, quello sì, ci sono i ticisti, stavo cercando i ticisti e poi non mi ricordo dove diavolo era, che ho guardato. E comunque vabbè, oramai è fatta, vaffanculo. Comunque sì, comunque al limite, vabbè, possiamo fare un'altra cosa, anzi faccio un'altra cosa, dato che ormai hanno sistemato la questione di foresta e cose del genere, quindi faccio la domanda lì e se la biglia è Napoli, se la biglia. Entro lì, come operatore agricolo, faccio la domanda lì direttamente, alla forestale. Vediamo se mi prendono. Devo fare la domanda, fare Fimiliard, adesso vediamo, comunque a centimetri già ci siamo, là. Se mi assumono vado a fare Fimiliard, un po'. Se ti assumono, guarda, sono contento, qualsiasi cosa, guarda, basta che non te ne stai a casa, rompiti le balle, il discorso è quello, solo che ti scemo, quindi, vado a lavoro, guarda, che facciano, che aprono le cose, faccio la domanda alla regione, come per l'agricolo, basta che ne esco da casa, guarda, mi faccio le mie 6 ore, 40, quello che sono, basta che mi mando a casa, sono cazzo di 28. Ma io la prima, se ho le 4 di montarle. fare il sindaco, il vice sindaco, quello che è. Che ha detto quante 6 ore di? Che sono abusato, ti fai 6 ore di sesso. Quello l'ho sempre fatto io, al centro storico, qual è il problema? Ma fandacci, se conosce qualcuno, senza... 6 ore, chiatta. Bene, brasiliani vogliono fare così, mio, hai capito? Sono 3 ore di salsiccione che ti mangi, bistecche, dopo le altre 3 ore prendi e fai il sesso. Birra, vino, quello che è, bevi, tranquillo, fai il sesso, poi rimani, poi prendi e te ne vai a casa, di domani. Hai cosa marazzurti è? E te lo sto dicendo io. E vai, andiamo un po' con un cazzo di mamma perdono. Per mamma perdono, Una volta che arrivano tre brasiliane che, ascolta, che a te ti spogliano, cosa fai tu? E che devi dargli la bistecca a pezzettini piccolini a mangiare, una o un'altra, cosa, a un certo punto cosa fai? Se non sono fuori te, cosa fai tu? Penso che gli ha togli fuori, no? Oh, io lo so, tu lo io, guarda la luce delle scale. Quando ero al centro storico, in questo video di valore, e di tutto, guarda, c'è passato, guarda. Ho preso anche un coso, un transiberiano. Che cosa? Un transiberiano, ho detto. Ho capito bene. Transiberiano, trans. Oh, mi hanno detto sulla motovatta che tu usi Viagra, vero? Aspetta, basta l'amplificazione, ti sembra amplificato la verità, va? Ah, poco fa l'ho sollevato, adesso meglio va. Adesso dimmi tutto. Ho detto, sulla modulazione, hanno detto che tu usi il Viagra, vero? Che uso il Viagra? Magari. A parte, se avevo avuto il Viagra, immediatamente mi avevo dato almeno la pensione, sta tranquillo. Purtroppo non me la danno ancora, quindi bisogna... Atto che me l'ho detto, adesso dovrei inviare, così mi viene un attacco di coso. Guarda, per questo coso mi dà la metà della pensione, subito, dopo 2 mesi. Andiamo, andiamo. Non sai come si sono la pressione? A 200, cazzo. E poi quella cosa dici, sì, ascolta, io non riesco a abbassarla, me la ammassi lì, mi mette il ghiaccio. Un bumbuglione, maggio. Adesso l'unica cosa purtroppo il vaccino, cosa è quello, un sacco di gente sta mollando, non ne vuole più sapere di questo vaccino qui, la AstraZeneca, hai capito? Cioè, l'ho fatto in Sardegna, non ne vuole più nessuno, amico. O li fanno l'altro, o se no se la abbia in culo, lo stato. Un bel anno fatto, di vaccini. Ma la stazione che non lo vuole più nessuno, hai capito? Né quello e tanto meno l'altro. Voglio solamente il Pfizer, BioNTech, e come si chiama? E Moderna. 12 e 2 vogliono, basta. La Sardegna eccetera eccetera non vuole più nessuno, lo sanno tutti, anche gli anziani, stanno tutti quanti, gli medici, ma ce la faccio a preparare prima? Pigliatela in culo, dico. Tutte balle, perché me l'ho fatta gente che conosco io, il Pfizer, e non è successo nulla. Dovete fare la penetra. Sì, così ti viene un coso, trombusicato, ammacco. Se mi faccio un Pfizer, no, un cazzo io non ne faccio di niente, intanto mi fa le 3 vaccini, devi tenere conto Luca, perché è vero, devi fare 3 vaccini, 2 devi farli quest'anno qua e il resto devi farli il prossimo anno, perché non è ancora finita me. Non è ancora, purtroppo non è ancora finita, dura un anno, dura, quindi devi fare un altro anno, quindi a un certo punto devi fare la procedura di 2, te ne fai 4. Magari ditti che cazzate. Detto l'anno, è vero. Purtroppo è così. Hai capito? Ci sono. Faccio una cagata. Speriamo che l'ho fatta di uguale, visti gli. Sono venuti per raccogliere i pomodori. La possono chiamare a noi, hanno chiamato gli indiani, quindi tutti positivi, uno per uno. ma lì faccio una gran cagata a dirle, cioè ce ne fa uno e poi c'è il richiamo, boh, non deve fare nessuna cosa, non deve fare, deve farlo anche dopo, anche per compare, ne hai fatto uno, lo so anch'io, c'è il richiamo, una volta hai fatto il richiamo sei coperto per un anno, dopodiché non è finita ancora così, purtroppo se dovesse succedere che ci sono varianti e cose del genere, stanno facendo adesso lì il vaccino nuovo per le varianti, se lo vuoi sapere, quindi è così, devi fare il nuovo lato vaccino in modo da eliminare tutto, purtroppo ci sono le varianti, la variante brasiliana, la variante africana, la variante qui, la variante là, purtroppo ce l'abbiamo, ce la dobbiamo tenere. Adesso l'indianica hanno pagato 20 euro per falsificare i tamponi, quindi figurati tu, questa estate, quando arrivano da fuori, fanno i tamponi esterni, arrivano qua in Sardegna e ci fanno nuovi come l'anno scorso. Tu vedrai che quest'anno noi passiamo l'estate in zona rossa, te lo dico io, da giugno fino a settembre, te lo dico io. Ascolta, Antone, non te lo voglio dire io, che è molto meglio, perché mi sono già scocciato. Non so dove vuol dire vaffanculo, ma purtroppo già lo sai cosa abbiamo passato l'anno scorso. Quindi spero che non succeda così, guarda, che almeno quell'imbecille che c'è a Cagliari si renda conto di non fare entrare più nessuno. Non vogliamo gente di fuori, solo noi saldi e basta. A noi, dal resto della roba non ce ne fate nulla. Basta che non arriva gente di fuori a Milano, che come l'ha fatto l'anno scorso, c'è chi si faceva come si chiama la tachipirina, c'è chi si faceva quell'altro, e poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la fine di merda noi. Spero che non succeda così, la verità spero non succeda, tanto la gente lo sa, è furba. Qua su Facebook hai molto fiago di lockdown e aggiungo molto fiago di guru. Fiago di fava. Lo sai cosa bisogna scrivere su Facebook? Non venite a Sardegna perché abbiamo il favismo, è molto peggio del coso. Avevo scritto così, perché noi mangiamo fave tutti i giorni, ai musulmani mangiamo tutti i giorni maiale, è meglio che non ci vengano. Tu vedrai che noi siamo a posto. Hanno dato noi un fiago di lockdown, come lo fiaghi un culo? Ci hanno fatto pagare purtroppo, quello che eravamo tutti, solamente noi in bianco, capito? Ci hanno fatto pagare. Purtroppo è così. Non ci possiamo fare niente, visto mai? Quanto abbiamo fatto? Un mese è arrivata a Bagate, non è come l'hanno fatto ieri a Bologna, l'ho vista a Bologna cosa hanno fatto in televisione, tutti con le bottiglie, chi whisky, chi vino, che cosa, birra, tutti fuori. Non possiamo stare però una vita così, no, non si può stare, ma via da in giro, boh, cosa, come, ma ancora crediamo che sia efficiente. Te sto dicendo mai così, purtroppo, visto mai ieri, a Bologna, liberi, hanno fatto vedere il cazzo filmato, io sono andato secco, tutti con la bottiglia in mano, cazzo, birra, vino, acqua vita, di tutto ci avevano, cazzo. Io, due sono le cose, o muori di Covid o muori alcolizzato, il discorso è quello, perché ti prende la roba e te la bevi a casa. Uno che mi si beverà sempre, dove o comunque. Vabbè, non è quello il problema, sai cos'è? La depressione che purtroppo, perché quando sei dentro casa tutti i giorni, hai capito? Non è normale, capito? Devi poter almeno uscire a sventiare, quando ti possiedi con gli amici, a metti un succo di frutta, quello che è. Non ti puoi mica bere un caffè, no? Se sei malato di cuore mica ti puoi bere un caffè, no? Cazzo, ma sei matto. Quindi ti bere un succo di frutta, poi devi essere in piedi. Cazzo, ce la fai, ma va. Prima in pratica si poteva bere dentro, adesso dentro non puoi più bere, adesso devi bere fuori. Tra poco vedrai che allora, bello, vicino ai cassonetti della mondetta la roba, te lo dico io. Per carità, è proprio così, Antonio, non ci puoi fare niente. Prima dico una cosa, poi dico un'altra, a un certo punto non si sa più chi credere, cosa vuoi fare? Berci una bella birra. Io la birra mi sai cosa faccio, posso bermela al bar, 2-3 euro, quelli che sono, a essere in piedi, fare uno spi, me ne prendo due mattine e me ne bevo vicino a casa. Mi siedo, quando vengono i vigili urbani o i carabinieri, dice cosa sta facendo? Questo me lo vedo le mattine, dove la comprate? Ecco, l'ho comprato lo spi. Quindi, qua di San Angeli, ecco. A un certo punto. Alla gente lì. Tipo, dice la multa, no? Vai pure dire un culo, vai. A me non è bato. Che multa mi fa? Non mi può fare nessuna multa a me, no? Se sono attaccato a casa, per dire, attaccato al cancello dell'ingresso di casa, per dire, me la bevo lì, c'è il, come si chiama, c'è il muletto, no? Per dire, me la bevo lì, vaffanculo. Cosa sto facendo? Mi sto bevendo la tira, la bella comprata da cosa, non sono a bar, quindi me l'ho comprata da cosa, da Rospino. Io al bar non ho comprato proprio niente, vale se avanti, non possono fare niente, a me multa non ne fanno, hai capito? Non c'è il coso, non c'è niente, quindi non c'è niente di male, perlomeno. Poi non lo so, secondo come la pensano i poliziotti questo, non lo so, bisogna vedere. Ma comunque sia, io gli spiego, mi sono preso la birra, scusi Enrico, per pagare 3 euro, la birra al bar è ben bella in piedi, congelata, non l'ho capito, dico. Me l'ho preso, non lo so, l'ho pigliato, con 3 euro me ne escono 6, e me ne bevo 6, di quando mi sono seduto adesso. Poi quando mi entro a casa me la bevo a casa, e il resto. Appunto per quello. Non mi posso dire niente, quindi a un certo punto. E così faccio domani. Giampiero mi ha mandato un messaggio stasera, dice, dice la birra insieme a te al bar, mi ha detto. E tu Giampiero, la birra è al bar, non la puoi bere, purtroppo. Anche se è invalido non c'entra niente. E tu hai detto, ti prendi detto, la birra al bar, poi andiamo detto, al disceso del garage, dove c'è l'ingresso dei parcheggi, tanto sono aperti, ho detto andiamo all'ingresso dei parcheggi, e come ti ha bevito la birra, e basta, io me la bevo lo stesso lì, non cambia niente. Appunto per quello, visto quanto bordello che sento stanotte, niente tengo uno. È pieno di provocazione stanotte, meno male, è ora, come l'altra notte. C'erano spagnoli, brasiliani, cose del genere, ma si è fatto un paio di ex sul canale 47 addirittura era. Sono andato fino alle 11, quasi mezzanotte, una cosa del genere. E stai cominciando a aprirsi, a scaldare i motori, bisogna cominciare, non è così. E beh, penso, senza tu dissi, adesso mi faccio un giro a vedere, là. Vediamo dove c'è propagazione, ci facciamo un giro. Aspetta un secondo, controllo e arrivo qua. Ehi, ok. Vai canale 45. Anto, ehi, 5 c'è propagazione da Sud Italia. Proviamo. Ehi, tutti là. Io lui che facciamo casino. Vabbè. Anto, dica. Io intanto sono 10. Aspetta che stacco un attimo, sennò tu mi senti stato, no? Stand by. Dovrebbe essere... Eccolo qua, stand by. Bomboli! Oh, sul 31 FM ci sono i tedeschi. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Oia. Ti sto facendo urare con la puntura a mamma. Andiamo che andiamo, che... Sono pagazzato come ieri sera, come l'altro giorno, tale quale. Adesso sono i tedeschi,